Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. La sera dopo incominciò la ritirata. Giunse notizia che i tedeschi e gli austriaci avevano sfondato a nord e scendevano le valli della montagna verso Cividale e Udine. La ritirata fu ordinata, bagnata e torva. Nella notte, procedendo lentamente lungo le strade affollate, oltrepassammo truppe in marcia sotto la pioggia, cannoni, cavalli, che tiravano carri, muli, autocarrette, tutti provenienti dal fronte. Non c'era più disordine che in un'avanzata. Quella notte aiutammo a vuotare gli ospedali da campo, che erano stati sistemati nei villaggi meno rovinati del pianoro, portando i feriti a plava sul letto del fiume. E l'indomani arrancammo tutto il giorno nella pioggia per evacuare gli ospedali e lo smistamento di plava. Pioveva forte e l'armata della Bainsizza scendeva nel pianoro nella pioggia d'ottobre, attraverso il fiume, dove in primavera erano incominciate le grandi vittorie di quell'anno. Arrivammo a Gorizia nel pomeriggio dell'indomani. La pioggia era cessata e la città era quasi vuota. Mentre salivamo lungo la strada, stavano caricando su un camion le ragazze della casa di tolleranza dei soldati. Erano 7 ragazze e avevano addosso cappello e cappotto e portavano delle valigette. 2 di loro piangevano. Una delle altre ci sorrise e tirò fuori la lingua agitandola su e giù. Aveva grosse labbra tumide e occhi neri. Fermai l'ambulanza e scesi a parlare con la matrona. Le ragazze degli ufficiali erano partite la mattina presto, disse. Dove andavano? A Conegliano, disse. L'autocarro partì. La ragazza dalle labbra tumide ci tirò di nuovo fuori la lingua. La matrona ci salutò con la mano. Le 2 ragazze continuarono a piangere. Le altre guardavano senza interesse la città. Ritornai nell'ambulanza. Dovremmo andare con loro, disse Bonello. Quello sì che sarebbe un bel viaggio. Faremo lo stesso un bel viaggio, dissi. Faremo un viaggio d'inferno. È proprio quello che voglio dire, dissi. Infilammo il viale della villa. Mi piacerebbe esserci quando qualcuno si arrampicherà sul camion e si darà da fare. Credi che lo faranno? Certo. Quella matrona è conosciuta da tutti, la seconda armata. Eravamo davanti alla villa. La chiamano la madre superiore, disse Bonello. Le ragazze sono nuove, ma lei la conoscono tutti. Devono averle portate qui proprio prima della ritirata. Se la vedranno brutta. Te lo dico io che se la vedranno brutta. Mi piacerebbe darci un colpo per niente. Costa troppo caro quel casino. Il governo ci frega. Porta fuori l'ambulanza e falla vedere ai meccanici, dissi. Che cambino l'olio e controllino il differenziale. Riempila e poi va a dormire. Sì, signor tenente. La villa era vuota. Rinaldi se n'era andato con l'ospedale. Il maggiore se n'era andato trasportando nella macchina dello Stato Maggiore il personale dell'ospedale. Sulla finestra c'era un biglietto per me di riempire le macchine col materiale ammucchiato nell'atrio e procedere per Pordenone. I meccanici se n'erano già andati. Ritornai nella rimessa. Le altre 2 macchine arrivarono mentre ero lì e gli chauffeur scesero. Stava ricominciando a piovere. Sono talmente pieno di sonno che ho rischiato 3 volte di addormentarmi venendo da Prava, disse Piani. Che cosa si fa, tenente? Cambiamo l'olio, le ingrassiamo, le riempiamo, poi le portiamo davanti all'ingresso e carichiamo la roba che hanno lasciato. Poi si parte? No, si dorme 3 ore. Cristo, sono contento di dormire, disse Bonello. Non riuscivo a stare sveglio mentre guidavo. Come va la tua macchina, Aimo? Chiesi. Va bene. Dammi una tuta che ti do una mano con l'olio. No, non si disturbi, tenente, disse Aimo. È una cosa da niente. Lei vada a fare i suoi bagagli. I miei bagagli sono già fatti, dissi. Vado a portare fuori la roba che ci hanno lasciato. Portate le macchine appena sono pronte. Portarono le macchine davanti all'ingresso della villa e le caricarono col materiale sanitario ammucchiato nell'atrio. Quando fu tutto a posto, le 3 macchine rimasero allineate nel viale sotto gli alberi, nella pioggia. Noi entrammo. Attraversai la sala da pranzo e l'atrio e salii per le scale di marmo nella stanza dove avevo vissuto con Rinaldi. Fuori pioveva. Andai alla finestra e guardai fuori. Scendeva il buio e vidi le 3 ambulanze allineate sotto gli alberi. Gli alberi gocciolavano nella pioggia, faceva freddo e le gocce pendevano dai rami. Ritornai al letto di Rinaldi e mi sdraiai e mi lasciai prendere dal sonno. Mangiammo in cucina prima di partire. Aimo aveva un catino di spaghetti con cipolle e carne in scatola tagliata a pezzetti. Sedemmo intorno alla tavola e bevemmo due bottiglie di vino che erano state lasciate nella cantina della villa. Fuori era buio e continuava a piovere. Piani stava molto assonnato a tavola. «Preferisco una ritirata o un'avanzata», disse Bonello. «Nella ritirata si beve Barbera. Lo beviamo adesso? Magari domani si beve l'acqua della pioggia», disse Aimo. «Domani saremo a Udine, berremo champagne. È lì che vivono gli imboscati. Svegliati, Piani, berremo champagne domani a Udine». «Sono sveglio», disse Piani. Si riempì il piatto di spaghetti e carne. «Non sei riuscito a trovare un po' di salsa di pomodoro, Barto?» «No, no, non ce n'era», disse Aimo. «Berremo champagne a Udine», disse Bonello. Si riempì il bicchiere di Barbera rosso e limpido. «Potremmo bere prima di Udine», disse Piani. «Ha mangiato abbastanza, tenente?» chiese Aimo. «Moltissimo. Dammi la bottiglia, Bartolomeo». «Ho una bottiglia per uno da portare in macchina», disse Aimo. «Sei andato a dormire?» «No, non ho bisogno di dormire molto. Ho dormito un po'. Domani dormiremo nel letto del re», disse Bonello. «Si sentiva molto bene. Forse domani dormiremo in...» disse Piani. «Dormirò con la regina», disse Bonello. Mi guardò come prendevo lo scherzo. «Dormirai con...» disse Piani, assonnato. «Questo è un tradimento, tenente», disse Bonello. «Non è un tradimento, piantala», dissi. «Diventi troppo allegro con un po' di vino». Fuori pioveva forte. Guardai l'orologio. Erano 9:30. «È ora di andare», dissi. Mi alzai. «Con chi va, tenente?» chiese Bonello. «Con Aimo, poi vieni tu, poi Piani. Prenderemo la strada per Cormons». «Ho paura di addormentarmi», disse Piani. «Va bene, verrò con te. Poi Bonello, poi Aimo». «Così va meglio», disse Piani, «perché ho un tale sonno. Guiderò io, così puoi dormire». «No, posso guidare finché so che qualcuno mi sveglia se mi addormento». «Ti sveglierò io. Spegni le luci, Barto. Si potrebbe anche lasciare accese», disse Bonello. «Non avremo mai più da fare in questo posto». «Ho una cassetta in camera mia», dissi. «Vuoi aiutarmi a portarla giù, Piani?» «La prendiamo noi», disse Piani. «Vieni, Aldo». Uscì nell'atrio con Bonello. Li udii salire le scale. «Qui era un bel posto», disse Bartolomeo Aimo. Mise due bottiglie di vino e mezzo formaggio nello zaino. «Non troveremo più un posto così». «Dove si ritirano, tenente?» «Di là del Tagliamento, dicono. L'ospedale e il settore devono essere a Pordenone». «Qui è una città più bella di Pordenone». «Non conosco Pordenone», dissi. «Ci sono solo passato». «Non è un granché», disse Aimo. Quando attraversammo la città, era vuota nella pioggia e nel buio, tranne per le colonne di truppe e cannoni che procedevano per la strada principale. Vi erano anche molti camion e qualche carretta che convergevano da altre strade sullo stradone. Quando si oltrepassò la conceria e si arrivò nello stradone, le truppe, i camion, le carrette a cavallo e i cannoni costituivano un'unica ampia colonna che si muoveva lentamente. Ci muovevamo lentamente ma saldamente nella pioggia, col muso del radiatore della nostra ambulanza quasi contro il retrotreno di un camion molto carico, col carico coperto di teli bagnati. Poi il camion si fermò. L'intera colonna dovette fermarsi. Ripartì, procedemmo un altro poco, poi si fermò. Scesi e andai avanti tra i camion e le carrette sotto i colli bagnati dei cavalli. L'interruzione era molto lontana. Lasciai la strada, attraversai un fosso su una passerella e camminai nel campo di là del fosso. Vedevo la colonna impantanata fra gli alberi nella pioggia mentre procedevo nel campo. Camminai 1,5 chilometri. La colonna non si muoveva, ma dall'altra parte di là dei veicoli impantanati vedevo muovere le truppe. Ritornai alle ambulanze. L'interruzione poteva arrivare fino a Udine. Piani dormiva sul volante. Salì accanto a lui e mi addormentai anch'io. Parecchie ore dopo udii il camion davanti a noi far grattare il cambio. Svegliai Piani e partimmo procedendo qualche metro, poi fermandoci, poi riprendendo ad andare. Continuava a piovere. La colonna si impantanò durante la notte e non ripartì. Scesi e andai a trovare Aimo e Bonello. Bonello aveva accanto a sé sul sedile della macchina due sergenti del genio. Si misero sull'attenti quando arrivai io. «Sono stati lasciati a fare qualcosa a un ponte», disse Bonello. «Non riescono a trovare il loro reparto, così gli ho dato il passaggio». «Col permesso del signor tenente?» «Col permesso», dissi. «Il tenente è americano», disse Bonello. «Darebbe il passaggio a tutti». Uno dei due sergenti sorrise. L'altro chiese a Bonello se ero un italiano del Nord o del Sud America. «Non è italiano, è un inglese nordamericano». I sergenti furono cortesi, ma non lo credettero. Li lasciai e ritornai da Aimo. Aveva due ragazze accanto a sé sul sedile e stava fumando abbandonato nell'angolo. «Barto, Barto», dissi. Rise. «Parli lei con loro, tenente», disse. «Io non riesco a capirle». «Ehi!» Posò la mano sulla coscia della ragazza e la strinse in modo cordiale. La ragazza si strinse addosso lo scialle e gli respinse la mano. «Ehi!» disse. «Di al tenente come ti chiami e perché sei qui». La ragazza mi guardò selvaggiamente. L'altra ragazza tenne gli occhi bassi. La ragazza che mi guardò disse qualcosa in un dialetto di cui non capii una parola. Era grassoccia e bruna e povera, sui 16 anni. «Sorella?» chiesi, indicando l'altra ragazza. Lei annuì e sorrise. «Bene», dissi, e le battei la mano sul ginocchio. La sentii irrigidirsi quando la toccai. La sorella non alzò mai gli occhi. Aveva l'aria di essere forse minore di un anno. Aimo posò la mano sulla coscia della maggiore e lei la respinse. Allora rise. «Bravo», disse indicando se stesso. «Bravo», disse indicando me. «Stai tranquilla». La ragazza lo guardò selvaggiamente. Parevano un paio di uccelli selvatici. «Perché è venuta su, se non le piaccio?» chiese Aimo. «Sono venute su appena ho fatto un cenno». Si rivolse alla ragazza. «Stai tranquilla», disse. «Non c'è pericolo di...» usando la parola volgare. «Non c'è posto per...» Vidi che lei capiva la parola. E fu tutto. Lo guardò con occhi molto spaventati. Si strinse addosso lo scialle. «Macchina tutta piena», disse Aimo. «Non c'è pericolo di... non c'è posto per...» Ogni volta che Aimo pronunciava la parola, la ragazza si irrigideva un poco. Poi, sedendo e guardandolo, incominciò a piangere. Le vidi tremare le labbra e poi scendere le lacrime sulle guance grassocce. La sorella, senza alzare lo sguardo, le prese la mano e rimasero sedute vicino. La maggiore, che era stata così selvaggia, incominciò a singhiozzare. «Devo averla spaventata», disse Aimo. «Non volevo spaventarla». Bartolomeo tirò fuori lo zaino e tagliò due pezzi di formaggio. «Qua», disse. «Smettila di piangere». La maggiore, che era stata così selvaggia, scosse il capo e continuò a piangere, ma la minore prese il formaggio e cominciò a mangiare. Dopo un po' la minore offrì alla sorella il secondo pezzo di formaggio e mangiarono tutte e due. La maggiore singhiozzò ancora un po'. «Starà bene tra un po'», disse Aimo. Gli venne un'idea. «Vergine?» chiese alla ragazza che gli era vicino. Questa annuì energicamente. «Anche vergine?» chiese indicando la sorella. Le ragazze annuirono tutte e due e la maggiore disse qualcosa in dialetto. «Va bene», disse Bartolomeo, «va bene». Le due ragazze parvero rassicurate. Le lasciai sedute vicino con Aimo nell'angolo e ritornai alla macchina di piani. La colonna dei veicoli non si muoveva, ma le truppe continuavano a passare da un lato. Stava ancora piovendo forte e pensai che qualcuno degli arresti nel movimento della colonna potesse dipendere dall'umidità nell'impianto elettrico di qualche macchina. Più probabilmente dipendevano da cavalli o uomini che si addormentavano. Poi poteva darsi che il traffico venisse bloccato nelle città dove tutti erano svegli. Era la combinazione dei veicoli a cavallo e a motore. Non si aiutavano fra loro. Neanche le carrette dei contadini aiutavano. Quelle erano un paio di belle ragazze là con Barto. Una ritirata non era luogo per due vergini, proprio vergini, probabilmente molto religiose. Se non ci fossero le guerre, probabilmente saremmo tutti a letto. A letto appoggio giù la testa, letto e tavolo, rigido come un tavolo nel letto. Ora Catherine era sul letto fra due lenzuola, uno sopra e uno sotto. So che fianco dormiva. Forse non dormiva, forse era sdraiata e pensava a me. Tira, tira, vento dell'ovest. Bene, tirava e non era una pioggia piccola, ma una pioggia grande, quella che veniva giù. Piove tutta la notte, si sapeva che pioveva. Guarda, Cristo, se il mio amore fosse tra le mie braccia e io nel mio letto. Se il mio amore, Catherine, se il mio dolce amore, Catherine, potesse piovere. Tirarla di nuovo contro di me, Beh, c'eravamo. Erano stati acchiappati tutti e la pioggia piccola non sarebbe servita a niente. Buonanotte, Catherine, dissi forte. Spero che tu dorma bene. Se stai troppo scomoda, cara, voltati dall'altra parte, dissi. Ti prenderò un po' d'acqua fredda. Tra poco sarà mattino e allora andrà meglio. Mi dispiace che tu stia così scomoda. Cerca di dormire, tesoro. Avevo sempre dormito, disse. Hai parlato nel sonno. Come stai? Ma sei davvero qui? Certo che sono qui. Non ho nessuna intenzione di andarmene. Questo non cambia niente tra noi. Sei così bella e dolce. Non te ne andrai nella notte, è vero? Certo che non me ne vado. Sono sempre qui. Vengo ogni volta che mi vuoi. Disse piani. Sono ripartiti. Ero intontito, dissi. Guardai l'orologio. Erano le 3 del mattino. Tesi il braccio dietro il sedile per prendere la bottiglia di Barbera. Parlava forte, disse piani. Sognavo in inglese, dissi. La pioggia stava diminuendo e noi stavamo procedendo. Prima dell'alba ci impantanammo di nuovo e quando fu chiaro eravamo su un piccolo rialzo di terreno e vidi la strada della ritirata che si stendeva lontano, con tutto immobile, tranne la fanteria che vi filtrava. Ricominciammo a muoverci, ma vedendo la media di velocità alla luce del giorno, capii che dovevamo riuscire ad abbandonare lo stradone e attraversare la campagna per poter sperare di giungere a Udine. Durante la notte molti contadini si erano uniti alla colonna dalle strade di campagna e nella colonna vi erano carri carichi di masserizie domestiche. Vi erano specchi che spuntavano tra materassi e polli e anatre legati ai carri. Sul carro davanti a noi nella pioggia c'era una macchina da cucire. Avevano salvato le cose di maggiore valore. Su alcuni carri le donne sedevano rannicchiandosi contro la pioggia e altre camminavano accanto ai carri tenendosi più vicine che potevano alle ruote. Ora nella colonna c'erano dei cani che non uscivano di sotto ai carrozzoni mentre procedevano. La strada era fangosa, i fossi laterali erano pieni di acqua e di là degli alberi che costeggiavano la strada, i campi erano troppo intrisi d'acqua per tentare di attraversarli. Scesi di macchina e risalii la strada cercando un luogo da cui poter guardare oltre per vedere se c'era una via traversa che attraversasse la campagna. Sapevo che c'erano molte vie traverse, ma non ne volevo una chiusa. Non riuscivo a ricordare perché eravamo sempre passati di corsa sullo stradone e si assomigliavano tutte. Ora sapevo che dovevamo trovarne una se volevamo salvarci. Nessuno sapeva dove fossero gli austriaci né come andassero le cose, ma ero certo che se smetteva di piovere venivano gli aeroplani su quella colonna. Sarebbe tutto finito. Bastava che qualcuno abbandonasse i camion o qualche cavallo venisse ucciso per bloccare del tutto il movimento sulla strada. Ora la pioggia non era molto forte e mi pareva che il cielo potesse rasserenarsi. Continuai lungo il ciglio della strada e quando trovai una stradina che portava a nord, tra 2 campi con una fila d'alberi per parte, pensai che ci conveniva prenderla e ritornai di corsa alle macchine. Dissi a piani di voltare e andai a dirlo a Bonello e ad Aimo. Se conduce da qualche parte possiamo fare il giro e tagliare, dissi. E questi? Chiese Bonello. I 2 sergenti erano accanto a lui sul sedile. Avevano la barba lunga, ma ancora un'aria militare, alla luce dell'alba. «Potranno servire a spingere», dissi. Ritornai da Aimo e gli dissi che avremmo cercato di attraversare la campagna. «È la mia famiglia di vergini?» chiese Aimo. «Le 2 ragazze dormivano». «Non serviranno a niente», dissi. «Ci sarebbe bisogno di qualcuno che possa spingere». «Possono stare dietro nell'ambulanza», disse Aimo. «C'è posto». «Va bene, se vuoi tenertele», dissi. Carica qualcuno che abbia la schiena larga per spingere. Bersaglieri, sorrise Aimo. Hanno le schiene più larghe, gliele misurano. Come sta, tenente? Bene. E tu? Bene, ma ho una gran fame. Dovrebbe esserci qualcosa su per quella strada e ci fermeremo a mangiare. Come va la gamba, tenente? Bene, dissi. In piedi sul predellino, guardando avanti, vidi l'ambulanza di piani infilare la via traversa e avviarsi, visibile attraverso la fila dei rami spogli. Bonello voltò e lo seguì E poi Aimo voltò a sua volta e seguimmo le due ambulanze lungo la stretta strada fra gli alberi. Conduceva a una fattoria. Trovammo Piani e Bonello fermi nel cortile. La casa era bassa e lunga e aveva un pergolato sulla porta. Vi era un pozzo nel cortile e Piani stava attingendo acqua per riempire il radiatore. Andare così a lungo con le prime marce l'aveva fatta bollire. La fattoria era deserta. Mi voltai a guardare la strada. La fattoria era su una piccola altura sulla pianura e si vedeva la campagna. E vidi la strada, gli alberi, i campi e la fila di alberi lungo lo stradone dove passava la ritirata. I due sergenti davano un'occhiata in casa. Le ragazze erano sveglie e guardavano il cortile, il pozzo e le due grosse ambulanze davanti alla fattoria coi tre chauffeurs al pozzo. Uno dei sergenti uscì con un orologio in mano. «Rimettilo a posto», dissi. Mi guardò, andò in casa e ritornò senza l'orologio. «Dov'è il tuo compagno?» chiesi. «È andato alla latrina. Salì sul sedile dell'ambulanza. Aveva paura che lo lasciassimo». «Cosa ne dice di far colazione, tenente?» chiese Bonello. «Si potrebbe mangiare qualcosa, non si perderebbe molto tempo. Credi che questa strada che scende dall'altra parte conduca in qualche posto?» «Certo». «Bene, mangiamo». Piani e Bonello entrarono in casa. «Venite!» disse Aimo alle ragazze. Tese le mani per aiutarle a scendere. La sorella maggiore scosse la testa. Non sarebbero entrate nella casa deserta. Ci seguirono con lo sguardo. «Hanno un carattere difficile», disse Aimo. Entrammo insieme nella fattoria. Era spaziosa e buia. Una sensazione di abbandono. Bonello e Piani erano in cucina. «Non c'è granché da mangiare», disse Piani. «Hanno portato via tutto». Bonello tagliò a fette un grosso formaggio bianco sul tavolo massiccio della cucina. «Dov'era il formaggio?» «In cantina. Piani ha trovato anche vino e mele. È una buona colazione». Piani stava togliendo il tappo a una grossa damigiana di vino impagliata. Lo assaggiò e ne riempì una pentola di rame. «Ha un buon odore», disse. «Cerca qualche bicchiere, Barto». Entrarono i due sergenti. «Prendete un po' di formaggio, sergenti», disse Bonello. «Dobbiamo andare», disse uno dei sergenti, agitando il formaggio e bevendo il vino. «Ora andiamo, non preoccuparti», disse Bonello. «L'esercito cammina sullo stomaco», dissi. «Cosa?» chiese il sergente. «È meglio mangiare». «Sì, ma il tempo è prezioso. Credo che quei bastardi abbiano già mangiato», disse Piani. I sergenti lo guardarono, non ci potevano soffrire. «Conosce la strada?» mi chiese uno di loro. «No», dissi. Si scambiarono uno sguardo. «È meglio che andiamo», disse il primo. «Stiamo andando», dissi. «Bevi un'altra tazza di vino rosso. Era molto buono dopo il formaggio e la mela». «Portate quel formaggio», dissi, e uscii. Bonello arrivò con la damigiana di vino. «È troppo grossa», dissi. La guardò con rimpianto. «Credo anch'io», disse. «Datemi le borracce da riempire». Riempì le borracce e un po' di vino si versò sul lastricato di pietra del cortile. Poi prese la damigiana e la rimise dentro la porta. «Gli austriaci possono trovarla senza sfondare la porta», disse. «Andiamo», dissi. «Piani e io andremo avanti». Ingegneri erano già seduti vicino a Bonello. Le ragazze mangiavano formaggio e mele. Aimo stava fumando. Infilammo la nostra stradetta. Mi voltai a guardare le due macchine che seguivano e la fattoria. Era una bella casa, bassa, di pietra solida, e la porta in ferro del pozzo era molto ben lavorata. La strada davanti a noi era stretta e fangosa e c'era una siepe alta ai due lati. Dietro, le macchine seguivano da vicino.